Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Dico subito in apertura, e chi mi conosce non avrà difficoltà a credermi, che questa mattina, parlando dell'uomo del nord, non mi voglio assolutamente accodare al facile maramaldismo nei confronti dell'antropologia leghista così duramente colpita da vicende giudiziarie e questa mattina campeggiante trionfalmente sulle prime pagine di tutti i giornali. No, non mi interessa perché è stato già lungamente dibattuto dalla giornata di ieri, è già argomento di irrisione, di divertimento, di doppio sensismo in tutta la rete, la vicenda delle paghette dei due figli di Bossi, la vicenda del leader del carroccio indagato, dei bilanci truccati e via dicendo. Prendiamolo come una sorta di segnale di riflessione su un dato abbastanza nuovo, abbastanza recente per il nostro paese. Da non moltissimo tempo si può parlare di un'antropologia dell'uomo del nord. Era molto più facile, molto più ricorrente. Sul meridionalismo si sono fatti un'infinità di studi. L'osservazione del nostro meridione come una sua particolarità, come un suo unicum, come delle fattispecie interessanti da osservare. L'antropologia del nord, secondo me, l'ha inventata proprio Bossi, inventando la Padania. Lui ha immaginato un luogo dell'immaginario, un luogo della fantasia. Ognuno di noi lo ha in testa, ognuno ha la sua terra perduta da popolare. Lo ha fatto, lo ha popolata e creando come se fosse un grande demiurgo, come se fosse un pantocratore, ha creato i suoi uomini, ha creato la sua filosofia, la sua mistica, i suoi punti di riferimento. Quanto poi questo faccia parte di folklore, di accozzaglia, di imparaticcio, di preso qua e là, non mi interessa. Però mi interessa che oggi si può parlare dell'antropologia dell'uomo del nord, dell'uomo naturalmente in senso lato, dell'uomo e della donna, ma esiste realmente, esiste una possibilità di classificare l'uomo del nord. Com'è l'uomo del nord? Ma nella nostra naturale storia patria recente, l'uomo del nord, se lo vediamo in senso metafisico, in senso assoluto, possiamo affondare le radici nelle più millenarie e remote e cosmiche delle tradizioni. No, noi parliamo dell'uomo del nord, come l'abbiamo visto noi, come noi italiani abbiamo considerato il nord dal 1945 in poi. Come faccio sempre quando mi pongo certi problemi che vanno oltre la mia capacità di elaborazione, la mia cultura, la mia esperienza, mi appoggio all'amico Giuseppe Sansonna. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Tu sei un uomo del sud. Sì. Beh, come uomo del sud hanno studiato fino alla noia, fino allo scarnificamento gonadico. Del sud sappiamo tutto e tutto abbiamo detto il contrario di tutto. Ma del nord, dalla Padania in poi, ne abbiamo cominciato a parlare, o sbaglio? Sì, sì, sì. Però in realtà, per esempio, Tognazzi è uno dei cardini di questo discorso perché ruppe il monopolio degli attori del sud e di Roma. Fu quello che, venendo dall'avanspettacolo, dalla rivista, a un certo punto propose il primo modello antropologico pieno di sfumature. Non arrivò alle brutalità bossiane. Bossi ha proposto l'uomo in canotto, che a parte che oggi sembra uno che parla nel sonno, come dice il mio amico Elio Artemale, a questa modalità che ha cambiato. Prima era quella più brutale da canotto. Non maravaldeggiare, no, non no, ci interessa. No, è un'analisi attraverso lo strumento che usiamo insieme sempre, che è la commedia italiana, il cinema italiano a cui noi diamo la dignità di essere l'osservatore più attento, più disincantato e anche più coraggioso della nostra realtà. Allora, quando il cinema italiano ha cominciato a definire la figura dell'uomo del nord? Intanto 800240024, dateci elementi. Noi vogliamo questa mattina non fare la solita trasmissione, l'importante e informata trasmissione sul declino della Lega, sull'eclissi, sull'apocalisse della Lega. Noi vogliamo semplicemente capire, dateci dei dati per definire antropologicamente l'uomo del nord. Dunque, allora noi partiamo da Venga a prendere il caffè da noi di Lattuada, il film in cui c'è questo Tognazzi che è impiegato nel Ministero delle Finanze ed arriva a conoscere, è innamorato del Mantegazza, questo antropologo darwinista monzese, e quindi classifica e enumera le donne in base alle loro virtù varie, che possono essere saper cucinare, la fisicità imponente di alcune E quindi se le spartisce, cerca una sorta di collazione di tutte le donne possibili in maniera molto pratica. Il film del 70, tratto da un romanzo di Pietro Chiaro, quindi un romanzo ambientato sul lago a Luino, fra l'Italia e la Svizzera, quindi è il nord più nord del nord, diciamo. Sì. È il nord in cui basta fare un passo e ci guardano già come persone del sud, anche se siamo dell'estremo nord. Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta. Basta con le soluzioni avventurose. Alla mia età, come dice il Mantegazza, l'uomo ha bisogno dei famosi 3C. Carezze, caldo, comodo. Non è mica facile. Tratto signorile con sesso debole. Serietà sul lavoro. Niente compromessi. Poca confidenza con la gente. Poche ma scelte pubbliche relazioni. Allargare i propri orizzonti. Niente bar. Niente circoli. Un po' di chiesa. Aspetto fisico. Aspetto morale. Aspetto un mese e mi sistemo. 800240024, siamo partiti nella definizione antropologica dell'uomo del nord, del nordico naturalmente visto dal nostro osservatorio, partendo appunto dalla figura di Tognazzi, che interpreta Emerenziano Paronzini, fra l'altro invalido della seconda guerra mondiale, quindi già diamo delle caratteristiche di callidità, di furbizia propria dell'uomo del sud e di un uomo del nord. Nel 1970, tratto appunto da un romanzo di Piero Chiara di una decina di anni prima, del fine degli anni, metà degli anni 60, del 64, La spartizione, l'uomo del nord era un furbastro, aveva delle radici che noi attribuiamo naturalmente, fisiologicamente, in luogo comune all'uomo del sud. Primo, a questa sorta di invalidità che si porta dietro perenne, che rinfaccia continuamente al mondo. Secondo, è un parassita. Trova queste tre sorelle riccastre, benestanti, le seduce tutte e tre, gioca sul fatto che a parte una che ogni tanto se la spassava chiusa in un deposito, in un capannone con un poveretto, così non è che lo vedessero poi tanto, e quindi lui se ne approfitta, lui per loro diventa un importante elemento di lussuria e di sessualità, e quindi se le fa una dietro l'altra, e di tre ne fa una fatta per bene, una di una le piacciono le gambe, di un'altra i capelli, di un'altra mi sembra le mani o qualcosa del genere, quindi è un grosso furbastro però collocato al nord. C'è un fondamentale pragmatismo, perché poi riesce anche ad andare al di là della bruttezza o comunque della non eccessiva prorompenza sessuale di Milena Vukotic e Angela Goodwin, poi c'è Francesca Romana Coluzzi che invece è la gigantessa e la terza sorella, poi gli sarà fatale però la quarta donna che è la cameriera di casa, la reale attrazione sessuale per lei poi lo porterà a stare poi su una sedia a rotelle e venire coccolato da questo gineceo che insomma si è scelto con molto pragmatismo, starà al caldo come aveva profetizzato secondo i dettami del Mantegazza. A lui in fondo non cambierà nulla, perché le tre donne hanno l'apoteosi del sogno di ogni femmina: avere un uomo invalido che non ti fugge, che non scappa, che non ha tentazioni con altre donne, che tu puoi accudire come un bambino. Penso questo sia il sogno che galleggia nell'animo di ogni fanciullo, Croce Rossina, sì, ma anche in tua moglie, anche nella mia sicuramente, ci vorrebbero lì con la cannuccina come fa lui, e essere pronte sempre lì, però non fuggi, non scappi, perdi completamente, metti sotto vetro la tua virilità, la tua indipendenza, e lui quindi è contento in questo, che in fondo lo accudiscono, lo amano e gli forniscono tutte le 3C, una dietro l'altra, in triplice varietà di esposizione, e lui sulla sediolina a rotelle fa lo stesso passaggio sul lungo lago con loro accanto. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Ci aiuti a definire allora l'uomo del nord? Ma l'uomo del nord è intanto molto creativo, anche se gli ultimi 50 anni sempre questa versione dell'uomo del sud che è creativo invece. E l'uomo del nord ottuso. Scusate, i più grandi compositori, Verdi, che era del sud, anche il pittore, Caravaggio, che diciamo forse è rimasto forse l'esponente della pittura italiana più conosciuta al mondo, non era mica di. Ma cos'è allora? Scusi, l'aria, l'acqua, il clima, cos'è che fa questi geni al nord che invece al sud non si può? No, non è questione di geni, è secondo me un'umiltà di fondo dell'uomo del nord che non parole, ma Sì, ma la cosa è determinata questa, anche... questa supremazia razziale dell'uomo del nord? No, non è una supremazia razziale, perché io non penso che ci sia. Vabbè, è un modo di dire. È una supremazia ambientale, perché logicamente noi avevamo dei confini con cui potevamo venire in contatto di grandi culture in quel momento, perché se noi andiamo a vedere, non so, la Sicilia, non è che poteva, avevamo dei Infatti la Sicilia è isolatissima. È isolata e anche più Sì, poche magari. Influenze culturali ha avuto la Sicilia, infatti. No, beh, adesso facciamo il discorso quello del nord. No, cioè, sono, diciamo quello che vogliamo, però hanno avuto durante il periodo. Sì, però scusi, Mauro, è un'altra trasmissione questa. Non faccio il nord nei confronti del sud. Faccia finta che c'è la famosa muraglia dal Po in giù, come dicevano appunto. Voglio capire esattamente qual è il tipo. Allora, questo Tognazzi raccontato da Piero Chiara, autore del Nord, interpretato da Tognazzi, attore del Nord, diretto dall'Attuada, non so esattamente dove sia, comunque. È un uomo del nord che però ha tutte le caratteristiche negative. Nordico l'Attuada. Sì. Nordico, anche l'Attuada. Tutte le caratteristiche negative che ha un uomo qualunque, nato in qualsiasi latitudine, o no? Non lo rivede fra la possibile antropologia del nord? Ma infatti, cioè, è quello che si vuole dire, cioè che l'uomo del nord viene visto sempre come ottuso, solo che è dedito al lavoro, ad accumulare la fabbrichetta, e il SUV, invece anche al nord ci sono questi personaggi, Don Giovanni, cioè. Come al sud, solo che. Ma questo più che Don Giovanni è un piccolo pappone di provincia. Ma questo però, cioè questo è un piccolo pappone, beh, anche Don Giovanni poi è un pappone anche lui. Beh, ma lui lo fa per divertirsi, questo lo faceva per starsene comodo, voleva tre serve. Beh, divertirsi per starsene comodo, poi dopo ci sono tante sfaccettature, ognuno se la può vedere come vuole. Comunque anche al nord, come al sud, ci sono questi personaggi, non è un portafoglio solo del sud. E quindi Tognazzi rispecchia il Playboy, il Vitelloni anche di feliniana memoria, questi personaggi. Dove li colloca? Lei, un personaggio tipo quello di Tognazzi, dove secondo lei potrebbe essere collocato nella mappa dell'Italia dal Po in su? Qual è la zona migliore? L'Interland milanese, il Bergamasco, il Nord-Est, il Veneto? Non lo so, dica lei, secondo lei. Ma tutto quello che è la bassa padana o il territorio che costeggiano il grande fiume, infatti Tognazzi era anche di Cremona, quindi magari riusciva un po' dappertutto, forse il Veneto no, il Triveneto no. È l'influenza emiliana che si sente. Emiliana lombarda, sì. Perfetto, grazie mille, è stato interessante. Gloria, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, volevo un po' dissociarmi, io sono una donna, un uomo che lei parlava del nord, io sono trentina, per cui un nord profondo, un nord molto austriaco. Volevo smarcarmi un po' dalla sua interpretazione di un nord un po' becero, un po' da vasta capo. No, io faccio domande, non è che interpreto, sto. No, cioè, ma io posso avere la mia opinione, la seguo anche spesso. Io le dico una cosa, in Trentino, a parte che noi siamo circondati e protetti dalle montagne, le dico una cosa, il nostro, come posso dire, la nostra eredità che abbiamo avuto da una dominazione, fra virgolette, asburgica, austriaca, ci sono rimaste delle cose meravigliose di ordine, non abbiamo bisogno di un catasto disastroso, abbiamo un ufficio tavolare dove è tutto scritto. Quindi è rimasto il retaggio della burocrazia austro-ungarica. Di una Felix Austria, di cui un impero che si è disgregato, ci sono rimaste delle cose molto positive. È una nostalgia, nostalgia di un ordine. No, non la nostalgia dell'ordine, usare questo ordine per vivere meglio. E non perché siamo una provincia autonoma, istituto speciale, dove abbiamo avuto anche. Sì, ma non giochi sempre in difesa, io non ce l'ho con lei, scusi. No, io non difendo. Sembra ogni cosa che dico. Lei sta esprimendo la nostalgia della Felix Austria, lo sta dicendo, e non c'è più. Allora, se lei le dice che è bella, è nostalgia. L'ho vissuta profondamente andando a Vienna, guardando le mostre di Klimt della secessione austriaca. Sì. Non ci sono solo i tirolesi con le piume e i costumi. Certo. E i costumi folcloristici. C'è una scuola di pensiero. Ma è innegabile. Pronto? Com'è? No, è innegabile, sono d'accordo con lei. Mi capisce? Sì, per ma esempio, Milano, guardi, non è una guerra. Gloria, è stata Gloria. Dagli austriaci. Sì, ma non siamo in guerra. Non è che io sono figlio di nessuno, non ho nessun retaggio e non mi ricordo nessuna dominazione che mi ha segnato il DNA. Sarà accaduto questo. Quindi è la più disincantata delle persone che le rivolge domande. Io voglio solo capire. Lei mi ha dato un quadro che unisco al puzzle che mi ha creato l'ascoltatore prima, abbiamo già avuto due punti di vista. Dottore, Ma che è successo, dottore? Niente, cosa vuole che sia successo? Vado qui un momento con loro. Se voglio potrei anche scendere dalla casa. Bravi ragazzi, non è mica colpa loro, cosa vuole? Dopo mi faranno delle scuse, è vero? Niente paura. Ma adesso dove lo portano? Ah, più vicino, stai tranquilla. E il gelato, chi lo paga? Io non ho soldi, dottore. I soldi, sì, per me sono i soldi. Ecco lei. Non si preoccupi. Papa, papa di poche ore. Allegra, al massimo qualche giorno. A presto. A presto. Allora, Giuseppe Sazzon, qui abbiamo cambiato contesto, è una ragazza del nord, no? No, è una ragazza romana che è Donatella, sì. Turri, che fa la stenografa e incontra Umberto Dorsi, che qui fa appunto il re della finanza creativa, e appunto smentendo un po' il pregiudizio sul nordico ottuso e pragmatico. Qui è molto creativo, fin troppo creativo, al punto che viene arrestato perché l'eccesso di entusiasmo e di iniziative ai limiti e oltre il legale nella Roma del boom, nell'Italia del boom, che quindi anche smentisce quel pregiudizio sull'onestà e la rettitudine sempre presente come un dogma nell'uomo nordico. Ma anche allora si individuavano tipi antropologici attenti alla possibilità. Questo film può essere un'anticipazione di quello che leggiamo oggi sui giornali, la grande scoperta dietro l'integerrima dichiarazione di diversità nei rispetti di Roma ladrone. Potrebbero esserci comportamenti assimilabili a qualunque altro tipo di abitante della nostra penisola. E in questo caso è una calata verso il centro, il ventre molle, il luogo della politica, di un acuto e fantasioso aspirante imprenditore del nord, di cui fa anche le spese questa povera stenodattilografa romana. Sì, Donatella Turri si troverà ad avere appunto una serie di mandrilli, di marpioni che le gravitano intorno. Lui non è interessato, e infatti qui c'è la finezza di Salci, non è interessato all'aspetto sessuale della ragazza, la vuole coinvolgere semplicemente come segretaria, però alla fine è disonesto anche lui e quindi verrà arrestato semplicemente, e coglie questa sfumatura, è già presente allora nel 62, quindi già è coglibile, insomma, ed evidenziabile nel tessuto italiano. Conferma il fatto che la commedia italiana in realtà ha dei punti di profonda profezia che non ha avuto nemmeno il più attento giornalismo. Fausto, buongiorno. Buongiorno, a un'altra commedia, signore e signori. Ce l'abbiamo nella nostra cartucciera, pronti a spararcela. Lei da dove parla? Da Milano. Allora, ci dia degli elementi, vediamo cosa può aggiungere quello che hanno già detto i suoi colleghi. Aggiungo che l'uomo del nord per me era l'uomo che veniva dalla gavetta. Io mi ricordo quando lavoravo nel 64 all'Innocenti, c'era il premio gavetta, l'ha preso Innocenti, l'ha preso Borghi, l'hanno preso un sacco di personaggi che si erano fatto dal nulla. Quindi diciamo, un altro esempio, che l'uomo del nord si costruisce. Non ha base di famiglia, spesso non ha base di famiglia, si costruisce. È una grande costruzione. Anche perché sei costretto a costruirti. Io sono arrivato a Milano nel 61, a 21 anni, dalla Calabria, e andavo di giorno, lavoravo, e di sera studiavo. E quindi lei è un'altra, diciamo, suddivisione, è l'uomo del nord con le radici del sud. Sì, però ero di mentalità settentrionale, nordista, quindi anche quando ero in Calabria la pensavo. Esattamente, è quello che pensava anche nella sua prima versione fortunatissima Diego Abbatantuono. Melog, la realtà condivisa. Ciappa qua, spionta! Mi dia anche mezzo chilo di zucchero. Ma certo, sa chi mi ricorda lei? Donatella Erezione, quel di splentito splentente. Uè, buongiorno. Si è fatto il cavello dubbla faccia. Senta, bella signora, che ci do oggi? Vuole i sfilatini o ci do tutti il pilone? So 3 chili e lascio. Ce l'ho ficca dentro il sacchetto. Questo è in omaggio dell'ascoltatore poco fa, parlando dell'uomo del nord, in cui lui si identifica, nato per fare la gavetta, però dice, parlando della sua autobiografia, quando io ero calabrese, come se il passaggio di questo confine ideale, emotivo, tra il mondo del sud e il mondo del nord annullasse, cancellasse anche il fatto genetico, la connotazione data dal territorio. Diego Abbatantuono ebbe la sua più strepitosa fortuna, poi naturalmente sovrascritta da ruoli più impegnati e più austeri e più drammatici, interpretando proprio, ma che è anche il personaggio con cui nacque Luciana Littizzetto, Minchia Sabri, il meridionale naturalizzato nel nord che lentamente sovrascrive le proprie origini, anche dialettali, anche gergali, con questa sorta di ridicolo mix, che è una fattispecie molto presente, il famoso cerchio magico, la moglie stessa di Bossi, la Rosi Mauro, detta la Terrona, era diciamo una fattispecie anticipata dalla commedia e dal cinema, che poi è stato uno degli elementi di maggior frizione all'interno della Lega, di cui da cui abbiamo preso spunto questa mattina. Sì, c'è una forte sintesi linguistica, questo pastiche che crea l'Ur meridionale Abbatantuono. In realtà è una lingua ibrida che da anni galleggia, dagli anni del boom galleggia a nord, una sorta di parlata che mescola appunto interiezioni siciliane che si possono sentire all'ombra della Mole nel cuore di Milano da sempre. E Abbatantuono ne sintetizzò linguisticamente, ne colse anche i lati grotteschi di questa smania di adeguamento, di questa voglia di essere accettati, e la lingua è il primo passo per essere accettati. Marco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Intanto le parla un mezzo sangue, metà calabrese, metà piemontese. Le racconto un episodio. Sfido qualcuno a chiamarmi all'800240024 con un certificato che attesti il suo non essere mezzo sangue. Di purezza. Le racconto questo episodio del targato 1994. Credo fossero i primi 100 giorni del governo Berlusconi-Bossi. Stavo a Varese con orgogliosi imprenditori simpaticissimi, ne farei anche i nomi, ma per questo episodio è meglio di no, di imprenditoria varesina, orgogliosissimi leghisti che declamavano insomma le virtù di quello che avrebbe cambiato il destino del paese. Allora, adesso sì che ribaltiamo sto paese, insomma si discuteva davanti a un caffè, quando siamo interrotti dal passaggio di un'auto strombazzante, velocissima, che ovviamente ci ha interrotto, e questi miei amici subito, Terone, perché viene classico qui nel nord, la macchina ci supera, era targata a Roma, quindi ulteriori declamazioni sulla romanesità e quindi arrabbiature varie, imprecazioni, la macchina si accosta a 200-300 metri da noi e scende il senatore Bossi. Ah, quindi era Bossi che strombazzava, guidava lui? No, ovviamente era un'auto blu guidata da un autista che però aveva fretta, perché io non lo sapevo, c'era un convegno a cui era stato invitato, e io gli dissi quello che oggi è. E quindi guidava la Terrona, suonando il clacson, facendo il chiasso. Esatto. Ecco, come guida invece l'uomo del nord? Ma adesso io sinceramente credo che fosse un uomo del nord a guidare. Ma usava il clacson non lo usa l'uomo del nord. Ah, appunto, è per quello che dico, in quel momento lì si declamò quello che oggi è chiaro alle cronache, insomma. Sì, però il coprivolante di peluche nemmeno usa l'uomo del nord. No, quello credo che non ci fosse davvero. Grazie, grazie Marco. Daniela. Salve, sono Daniela. Io Daniela del nord, donna del sì, nord. Da Bergamo. Alta o bassa? Alta. Quindi Bergamo è più alta. Nord del nord. Sì. Anche se io ho degli antenati un po', nonno marchigiano, uno veneto, una nonna emiliana e due nonne, e la bisnonna emiliana e le due nonne di Bergamo, quindi vabbè, non è, diciamo, sono un po' tutto, ecco. I bergamaschi, io parlo per i bergamaschi, sono molto seri, si prendono troppo sul serio. Beh, ci sono un sacco di preti, tutto come al mondo. Sì, no, vabbè, a parte i preti, ma proprio loro parlano io faccio, e non prendono la vita un po' in allegria. E come si comportano con le donne? Le trascurano? No, dica, guardi, è il giorno della verità questo, veramente. Non rinunci donne, alla sincerità. No, allora diciamo che gli uomini lavorano tanto, e le donne spendono quello che guadagnano i mariti. Quindi i mariti fanno i soldi, le donne spendono i soldi. Sì, secondo me. E in questa catena di sopravvivenza qual è il luogo del piacere e il tempo del piacere? Ma io noto adesso che c'è la palestra. Sì. Quindi l'atteggiamento molto. La palestra è una botta. Dov'è il piacere della palestra? È fatica la palestra. Sì, però c'è il narcisismo, quindi siamo tutti magri, tutti ben vestiti, e la cosa che mi piace... Quindi la donna bergamasca è magra e ben vestita. Sì, però si prende troppo sul serio, quindi questo magro e ben vestito diventa una schiavitù. Quindi una figa di legno. Sì, secondo me, a me piace basta, quando vado... Ogni cosa ha il suo nome, giusto dire. Si fa bella, quando... si cura, si cosa, però sta lì, cammina a 12 centimetri da terra con i suoi tacchi, si fa vedere, il marito tanto sta lì a fare i soldi, ma non spende in piacere il suo investimento nel fisico. Per me no, a me piace quando vado al mare, io vado sempre in Abruzzo, così, dove vedo le signore di Roma, anche molto, diciamo, un po' più in carne, ma che stanno davvero bene con se stesse, ridono. Perché scherzo, quella carne la usano nella maniera appropriata. Nella maniera appropriata. Sì, sì, no, però si mangia volentieri. Ecco, noi qui siamo forse un po' troppo rigidi. Beh, questo è terribile quello che ha detto, però. È una sorta di esposizione di panni sporchi in famiglia che nessuno fa. Com'è? È il luogo in cui per antonomasia gli uomini dicevano ce l'ho duro. E poi tutta questa durezza alla fine cosa ne fanno? No, io fortunatamente non ho di questi problemi. Non ha di questi problemi? Beh, grazie, no, lei è una donna. Io probabilmente, no, poi avendo un marito anche lui non strettamente bergamasco. Ah, si è salvata. Diciamo, beh, lei si è salvata. Forse riusciamo a vivere un momentino con più, diciamo così, allegria. Oh, va bene, guardi, la sua felice esposizione di qualcosa che nessuno ha avuto mai il coraggio di dire già l'assolve in partenza e le auguro massima felicità. Ale, devi dirmi qualcosa, ma perché ti mi guardi così? Ti vuole ancora prendermi in giro? Non vedi in che stato che sono? È 10 giorni fa a Padova. Cosa? Zoraide, Padova. Quello che ha detto Scarabelli, questo ti dica. Non è vero niente, ho dato dei soldi a quella disgraziata perché la mattina facesse la commedia, questo ti dica il complesso che c'ho. Ti ridi anche a te. Giuseppe Sansonna. Siamo a Treviso, nella Treviso dei signore e signori di Pietro Germi, e qui sono Alberto Leonelli e il roco Gigi Ballista. Qui si contraddice un po' quello che diceva l'ascoltatrice sulla sessualità. Qui è molto... Beh, guarda, è un'altra provincia però, certo, siamo scesi notevolmente. Sì, però qui... è l'ipocrita carnalità da chierichetto e da sacrestano della zona bianca, della grande sacrestia d'Italia, capito? Dietro la facciata ribolle fortemente quello che naturalmente non si può dire, ma naturalmente si deve fare. Qui è molto ruzantiana, infatti, la sessualità diventa una sorta di argomento di scambio e di confronto fra galli, appunto, che tra l'altro usano anche il denaro come merce, come elemento di, come stato un simbolo, ma anche il sesso, quindi lo scambiarsi le mogli, essere fetifraghi, insomma riuscire a mantenere una certa sessualità molto attiva. Qui Alberto Leonello finge di essere impotente, però appunto con un espediente riesce a intrufolarsi in casa del medico Ballista e a sedurne la moglie, perché lui si fida della sua impotenza e quindi gli lascia la moglie in pasto. Carlo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno Sansonna. Samsonite è la pronuncia giusta. Prego, Samsonite. Volevo chiedervi questo: come mai, se io da uomo del nord affermo che per esempio i tedeschi hanno un'etica del lavoro e un senso civico superiore al nostro, sia di italiani, e se dico invece che noi uomini del nord abbiamo un'etica del lavoro e un senso civico superiore agli uomini del sud, passo per razzista? No, chi l'ha detto? Sono generalizzato. A me non viene nemmeno in mente un istante, mi sembra anche oggettivamente rilevabile da dati, non c'è niente di strano, mica ha detto una bestialità, mica ha detto, bestialità sarebbe dirlo che ciò accade per una sorta di componente genetica, climatica e via dicendo, è così, non è il mio mestiere trovare le ragioni. Sansonna, non fa la difesa dell'uomo del no, sud. No, assolutamente, però io anche questa antropologia sta un po' cambiando. Io ho visto anche recenti inchieste televisive, insomma, c'è per esempio l'infiltrazione dell''ndrangheta al nord, questa continuità fra lui. Però c'è una sorta di empatia che si sviluppa per questi retti nordici. Il signore ha detto: noi abbiamo chiesto di far tracciare una possibile antropologia dell'uomo del nord. Carlo, mi corregga se sbaglio, ha detto, dice, in effetti noi abbiamo un senso etico generalizzato. Però sta diventando un po' obliquo, però sta un po' scivolando, sì, stiamo mutando anche un non pochino. Ti lasciare, non ti lasciare adesso colpire e condizionare da quelli che sono i flussi informativi e giornalistici, perché ci sono dei momenti in cui si ammassano le notizie, come la storia dei suicidi, come tante altre storie, capito? Però Carlo, mi sembra aver interpretato bene il suo mestiere. Però lei non viva nel complesso di colpa di dover dire quello che pensa. Dica tranquillamente, non esiste luogo, o esistono pochi luoghi al mondo in cui si possa dire tranquillamente quello che uno pensa, come in questa radio. Melog. La realtà condivisa. Ma cosa fa? Ho fermato l'ascensore. E perché? Perché ne devo parlare. Di cosa, scusi? Di lei, Michela Parodi, anni 21, nata a Varazze, di estrazione piccolo borghese, per non dire proletaria, ex operaia della ditta Sauri, un giorno viene notata dal direttore generale e la sua vita cambia da così a così. Si sposa, diventa una delle donne più ricche della città, pellicce, gioielli, villa con piscina, macchine di grossa cilindrata, però c'è qualcosa che manca. Il sex. Sesso. Ma ecco che un bel giorno si blocca un ascensore e Michela Parodi all'istante fa 13. Ha incontrato un giovane che, senza falsa modestia, oserei definire simpaticissimo. Discrezione ai livelli di Tom Ponzi. 800 24 00 24. Vedi, Giuseppe Sansonna, vedo con piacere che quella che è l'importante testimonianza del nostro pubblico, che non è mai vaga, se sollecitati, indirizzati e richiamati su un tema preciso, è una perfetta mappa della realtà, quelle che sono gli interventi del pubblico. Ricordi la signora di Bergamo che ha detto poc'anzi? Ecco, esattamente Gerry Calà in questo momento, attentando alla virtù, poi molto fragile, molto semplice da essere spugnata, di Sabrina Salerno, moglie del suo principale produttore di panettoni, esattamente dice le stesse cose. Tuo marito ti ha fatto ricca, ti ha fatto felice, però ti manca una cosa. E lui fa esattamente quel personaggio da Don Giovanni nordico che ha allucinato un altro ascoltatore. Sì, solo che invece di essere affascinante come Alberto Leonello è uno dei misteri italiani, perché la faccio insomma da pechinese di Gerry Calà, che tra l'altro è un mezzo sangue, mezzo siciliano e mezzo veronese. È stato l'anticipatore di Fabio Volo, una sorta di trash al contrario, l'emulazione fallita anticipatore di Fabio Volo è Gerry Calà. Sì, infatti, però viene presentato come simbolo sessuale perenne, forse anche Ferreri infatti lo chiamò per fare Diario di un vizio, per appunto nella sua satira grottesca di questo tipo di elementi. In ogni caso, qui Sabrina Salerno rappresenta il trofeo a cui ambire, la donna del capo, e quindi al bar, nel bar appunto Veneto, si ambisce a chi riuscirà a conquistare la terra proibita. C'è una sorta di macismo del nord, che è anche un altro elemento che consideriamo poco. Gli amici scommettono tutti che lui se la sarebbe fatta. Nel bar della provincia lombarda si fanno le stesse gare a chi ce l'ha più lungo, metaforicamente, che si fanno lungo la controra nelle caffetterie dei piccoli paesi del sud. La differenza è che, per esempio, in Sicilia, almeno culturalmente, c'è una reticenza, una sottigliezza. Qui invece tutto è molto brutale, esplicito, appunto, di quantità, senza mezzi termini, senza sommature. La reticenza è il più assolutamente fantastico condimento di ogni lussuria a quelle latitudini. Carmine, buongiorno. Buongiorno, Nicoletti. Complimenti alla trasmissione. Quando ha detto sfido Sala, generazioni, chi è nato qua, chi è nato là, sposati, volevo solo dire che mio nonno mi raccontava che i suoi nonni, suo padre, sua madre, mio padre, io, siamo nati tutti a Castellabate da non so quante generazioni. Ma quindi lei è il puro sangue che cercavamo? Io sì, l'ho interrotta io purtroppo la cosa del puro sangue. Perché ha sposato una terrona? Perché ho sposato una marocchina, una sarawi del sud del Marocco. Ancora più giù è andato, ha esagerato proprio. Ho fatto una vacanza negli anni 90 e adesso... Beh, sarà stato contento, immagino. Ho interrotto tutta il sangue, via. Si rivolteranno con tutte gli elmi, le corna e le spade, tutti i suoi avi nei loro luoghi di sepoltura, però che vuol farci? Saranno incazzati neri. Penso che se la sia, questa scelta se la sarà ben goduta e ne avrà avuto senz'altro ottimi frutti. Sì, ottimissimi. Bravo. Bene, puoi volare l'olio sul tè. Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing. Cos'è, il nuovo record stagionale? Esatto. Ti dirò di più, se noi arriviamo in camera nel giro di 3 minuti, siamo sotto il muro delle 3 ore. La vedo dura. Qui per ritirare la chiave toccherà stare in lista d'attesa tutta la mattina, vedrai. Ma quale lista d'attesa, testa? Io c'ho il passepartout qui. Questa è la testa della fresca lata. Tu stai vicino, mi segui e non prendi le iniziative. Vamos. Allora Giuseppe, questa è una delle rappresentazioni più felici, più assolutamente esaustive di quel tipo di antropologia nordica portata a livello, a rango di macchietta, però esistente, reale, concreta, percepibile anche dalle persone che ci chiamano. Questo è il sommo Guido Nicheli, che all'inizio degli anni Ottanta reinventò il linguaggio del Kumenda, che ancora oggi, senza fare discorsi ideologici, è presente per esempio nelle intercettazioni della Minetti, parla allo stesso modo per briffare, questo misto di anglismi deformati, di impossibilità del congiuntivo. Vi devo, insomma, briffare. Sì, e quindi è lì che nasce questo linguaggio, è lì che nasce la matrice appunto della lingua, del fonema che si modifica e che, insomma. Beh, qui sai, poi c'è una forte influenza lessicale dell'aziendalese, del marchettese, no, è il linguaggio del marketing, poi anche le marchette ci stanno in questo caso. Buongiorno a tutti, un americano liscio. Oh! Che? No, scusate, ma volevo attirare la vostra attenzione su una missiva pervenutami questa mattina a firma Federico Fellini. Federico Fellini. Niente poco di meno. Leggi. Caro Antonio, ascolta, le foto che mi ha inviato mi sembrano molto interessanti. È un viso espressivo, energico, fotogenico. Allora Giuseppe, velocemente, ultimi 30 secondi, l'ultimo tassello di questa antropologia dell'uomo del Nord che abbiamo tracciato attraverso la commedia italiana. Sono fotogenico di Risi con Pozzetto, che dal Grigioni dell'Aveno vuole arrivare nella Mecca del cinema, che è Roma. E troverà il grande produttore, l'attore che con la cavigliera d'oro tenterà anche di fargli le parti basse. E questo in fondo è la metafora che meglio racconta il momento che stiamo passando. Grazie Valerio Rocchetti, grazie Fabrizio Intonti. A domani.